fare tutta la Resto Radio Convento per raccontarsi, per raccontare. Ed eccoci qua. Ben trovati all'ascolto sulle interconnessioni web di Resto Radio Convento. E questa sera qua nei nostri studi ci sono venuti a trovare dei ragazzi da molto molto lontano, quasi vicino alla Prica, pensate. Ma lasciamo parlare loro. Abbiamo qua in ordine di comparizione, come si direbbe in un tribunale, alla mia sinistra abbiamo la simpaticissima Chiara che arriva da Cortenogolgi, che è vicino alla Prica, quindi Ponte di Legno, Passo del Tonale. I tuoi amici di fianco, Thomas e Alessio, anche loro muniti di sci. Sono sci muniti? Esatto. Altro che. E siete qua in qualità di passare una bella serata insieme ai nostri amici per festeggiare la nostra festa di coscritti del 1998-1999. Benissimo. E siete in quanti? 19. Un pulmino? Sì. Bellissimo. Purtroppo qualcuno non è riuscito a partecipare. Perché ci sono sempre dei problemi, cioè, sì. Allora, a Golgi, com'è che... Cortenogolgi. In pratica, dopo Edolo? Sì, ecco, 7 minuti dopo. 7 minuti? Nel salire si arriva a Cortenogolgi. Cioè, tra Edolo e Aprica. Ok. È un paesino. Come Heidi. Quindi bisogna scendere un attimino dopo, no? Salire. È sulla sinistra? Sali sulla sinistra. Andando verso Ponte di Legno, in pratica. No. Verso la Prica. Ok, dopo Edolo io proseguo per il Ponte di Legno. No. Allora, no. Edolo, Ponte di Legno, verso destra. A destra. La Prica a sinistra. Ah, ok, ci farò caso quando andrò al Ponte di Legno. Anzi, io in genere vado al Tonale a sciare. Ho degli amici e poi ho dei ricordi, ho lasciato una caviglia. Ecco. Che ogni tanto ritorno per ricordare i bei momenti. Caviglia. Sì. E tu, allora, abbiamo detto, ricapitoliamo, Thomas, Alessio e... Chiara. Chiaro. Certo, anche Chiara è Chiara. Chiara, cosa fai nella vita? Lavoro. Lavori? Mi occupo... Sei istruttrice di sci? No, magari. Lavoro in una... sono impiegata in un ufficio. Sì. Mi occupo della qualità di questa azienda. Quality control. Yes. Ok. E questa azienda, possiamo anche dirlo, cioè non è un problema, non facciamo pubblicità. Si occupa, è un settore particolare, si occupa di impianti per quanto riguarda la ferrovia e i tralicci, l'alta tensione. Quando arrivano in ritardo i treni è anche colpa tua. È anche colpa mia. Benissimo. E invece Thomas di cosa si occupa? Io sono un impiegato in un ufficio di una carrozzeria a Sonico. A Sonico? Mi piace, sì. So dov'è, lo so dov'è Sonico. Quindi fai delle carrozzerie ultrasoniche in pratica. Esatto. È bellissimo. E invece Alessio? Io faccio l'idraulico. Più vicino. Io faccio l'idraulico. A Cremona si direbbe che fa il trumbeer. Esattamente. Si dice anche a Brescia il trumbeer? Sì. Ecco, quindi, ma perché si dice il trumbeer? È perché dicono che quando si va a fare riparazioni si tromba, ma in realtà... No. Si lavora e basta. Secondo me non è per quello. Secondo me è perché il trumbeer, cioè, le trombe sarebbero anche i tubi, giusto? Sì, però... Sì. Lo usano più che altro per l'altro termine. Ma è vero? No, non è vero, è tutta una bufala. Sfatiamo il mito. Sì, sfatiamo il mito. La fama dell'idraulico. Ma l'idraulico è liquido oppure solido? Sia liquido che solido, purtroppo, alcune volte. Va bene. Non entriamo nei particolari. Ecco. Allora, parliamo della classe 1998-1999 di... Cortenogolgi. Sei veramente preparata, Chiara. Cioè, veramente, non ho parole. Cioè, sei venuta qua che sei... Le sai tutte, le sai. E sai perché si chiama Cortenogolgi? No, non lo so. Lo vuoi sapere? Certo. Perché è nato Camillo Golgi. Ah, il famosissimo. Il famoso Camillo Golgi. E chi è Camillo Golgi? Camillo Golgi ha inventato, ha scoperto l'apparato di Golgi. L'apparato di Golgi, famosissimo. Cioè, come si fa a non fare delle cose con l'apparato di Golgi? E dov'è? Io ho due apparati di Golgi a volte. Cioè. Spiegaci. Oddio, evitiamo. No, io passo la parola a Alessio. No, Alessio. È un apparato che si trova all'interno della cellula. Della cellula. Non fatemi dire di più. Ok, va bene, quindi entriamo in un. Thomas. Non far finta di nulla. Thomas sta fischiettando, guardandosi in giro, dicendo: speriamo che non guardi me, speriamo che non guardi me. E no, invece ti ho guardato te. Dai. Mi sai dire qualcosa di più? L'apparato di Golgi si trova nella cellula umana. Sì. E... Più vicino. E... Serve per la procreazione? Ce l'abbiamo tutti, non credo. Ce l'abbiamo tutti, va bene. Faremo una ricerca su Google. Cos'è l'apparato di Golgi? Perché è nato Camillo Golgi e è nato in questo paese quando? Nel 1800? 1900? Vabbè, niente, stendiamo un velo pietoso. Chiara, era meglio non dirlo. Quindi siete qua per festeggiare, vedo che ci state riuscendo, siete molto simpatici. Grazie. Anche tutto il resto della compagnia. Sì. Eravate a che piano, al secondo o al terzo? Terzo. Terzo piano, che c'era anche Rino Raffi DJ, che ha fatto un casino mica da ridere. Esatto. E nulla, a questo punto che dire, tutte le foto, tutti i video della serata li trovate sul nostro sito, sulla nostra app Convento, che potete trovare sui nostri sullo store del Apple e sullo store Android, e quindi tutti questi bei ricordi che avrete li potete scaricare e riviverli durante la settimana, gli anni a venire. Bene, grazie mille. Grazie a voi della vostra compagnia. L'atmosfera del convento ci sta facendo comunque raggiungere i nostri piani, divertendoci veramente tanto. Benissimo. E vi ringraziamo tutti. Noi ringraziamo te, poi 50 euro te li do dopo. Bellissimo, grazie. Alessio, vuoi aggiungere qualcosa? Salutiamo il nostro amico Flavio che ci sta guardando. Colui che è qua di fuori, che... Anche la mia mamma. È di fuori in che senso? Anche la mia, ciao mamma. È fuori dal vetro della radio. È fuori dai nostri studi. Esattamente. Perché altrimenti qualcuno si potrebbe anche preoccupare, che è come di fuori, mamma mia. No. Prima fila. Ma mi sembra brave persone. È lì che balla davanti a noi, stupendo. Bellissimo. Ragazzi, siete simpaticissimi. Vi saluto, vi auguro tante belle cose. Ci rivedremo qua senz'altro l'anno prossimo. Esatto. Può darsi, sì. Può darsi. È stato bellissimo. Ciao da Mr. Dave, ciao da Chiara. Ciao. Da Thomas. Thomas e da Alessio è il Trombadour. Magari.